Giulia, drommi. Questi bruci mi stanno rompendo i cartoli, eh? Ah, vatti, se lo voto in godighi sul fischietto. Hai capito, ballo bene? No, sto qua testando, spingendo. Adesso stanotte vengo lì alla una e ti suono il campanello, così impari. Alla una? Già sono sveglio a quello, dai, così ci facciamo il caffè, sambuca. Allora venga alle tre, quando sei addormentato, così ti disturbo. Apposta te lo faccio. Ah, sonno mi vuoi prendere? Cazzo! Andiamo a Cappa, no, mi sono qua con quello là, vedi un po', caparroggio, saponetta alla mano, e cosa ho staccato, spento, amplificatore. Andrà bene, Meda. Andrà bene, spinge, vediamo un po'. Così ho attaccato il bagaglietto, vedi un po', ora. Sempre senza approccio. Beh, è logico, si attacchi isso. E finta è troppo forte, vorrebbe un po' abbassato, è troppo forte. Addirittura, posso abbassare, da qua guarda, dai cursori, questo è quello giallo, è Natale. Sto abbassando dai cursori, ma che a 0, non so quanto, a 0,5. Dai cursori, vedi un po', 1, 2, 3. Ehi, va benissimo, se è di russo chiara e forte. Considera che è la saponetta, adesso ti spengo di nuovo l'amplificatore, ecco, è spento, 1, 2, 3, prova radio. Adesso ti attacco il proccio. E così sono il proccio. Ehi, stai innescando col proccio. Immagino. Ehi, scappa. Allora, riattacchiamo il bagaglietto qua. Sto sfruttando, Ola. Allora, la regolazione del cursore lo lascio così, il livello lo lascio così. Poi questi, vediamo un po' come cambia, così brutta, no? E così è più bassa. Ah, più bassa? Vabbè, quello pensavo che era barattoloso o cuffa. Forse questo, non mi ricordo quale che la fa cuffa, questo forse. Questo qui è che la fa così, tutta quanta... la fa tipo telefono, né? Ah, la Malgiulio, allora lo rimetto al massimo, allora lo metto. Ecco, adesso è al massimo, dovrebbe dare un po' più di cosa, no? Adesso è chiara la radio, non ha più telefoni. Perché c'ha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 regolazioni, così che... Caparroggero! Ah, vai, è di lusso. Aspetta, tolgo la saponetta, metto il 60. Allora, vediamo un po'. Ola, sempre attaccata. 1, 2, 3, attaccato. 1, 2, 3, 5, 9. Ehi, come l'altro, non è che varia di molto, no? Vero. Vabbè, sono precisi i Natali. Aspetta, lo riattacco. Sono precisi, ma dopo quando lo apro, li apro anche la radio come ho fatto a quell'altro. Capito? Adesso domani mattina me lo faccio il giro, non c'è una gana. Poi, chi lo vuole è così. Chi no, si vernice con perché, se no li faccio il colore identico. Lo vendo a pieno prezzo. Mi bario io. Io sto facendo risparmiare un bel 50, capito? E ci rubigliani con i tappi così. Se no, ripeto, ci metto 2 euro di vernice e lo do a 400. Sì, infatti. Ciao! Ti hai messo bene anche il suo microfonino, eh? Ti hai messo bene, sì, non ha niente di che proprio. Io ce l'avevo, l'ho dato insieme all'apparato, l'avevo venduto il mio, no, perché non avevo intenzione né di aggiustarle né nulla. E specialmente rispondesse di me, tu mi sei messo di tutti i rinnami, tutti. scelte sono, Natalie, scelte. Quello là, l'altro me lo sono fatto io stesso e capito, così che non ho speso niente, vabbè, ho comprato certi componenti perché non ce li avevo tutti, però come lo senti ogni giorno, va che una scheggia. Ehi, al gioco, l'hai televisionato, l'hai ubbidito. A chi su aveva il problema dei VCO, capito? Sì che puntini, accendevi la radio, puntini. Si c'è una patata lì radio femmini, era un anno e mezzo fermo, arrombato. Vabbè, se sei qua stessi qua, puntini, lo sai cosa è il difetto dei puntini, così che col tempo lo fa, poi il tuo non so cosa avesse, però non lo so. Scelte sono Natali, se aggiustarseli, certo spendere soldi non ne vale la pena, no? Infatti, chissà quanto mi viene bigliata con Sallo. Perché io quando l'ho fermato era funzionante, cazzo, era una belva quell'apparecchio, mi si è fasciato. Lo so, ti sarà dispiaciuto, ma qual è quello che avevo in campagna? E allora, cazzo, era una belva, era. Peggio per te, io ti raggiudito all'epoca, ma tu l'avevi già dato a qualcuno. Però non te l'hanno riparato, così che hai dovuto fare la scelta. Invece questo ce l'avresti avuto, bello, e godertelo. E infatti, cazzo, l'ha dagato un anno e mezzo fermo, l'ha dagato, perché se era stato qui l'avrei acceso e tu non sarebbe rotto, guarda. Il backstage e le prove che oggi quando serviamo. Mi ha giurato che non si dia più, affanculo. Cioè te gli ha dato funzionante, ti ha dato un radio che non funzionava, che non è una cosa bella, non vedo poi il perché darglielo. Prestare determinate radio io non sono tanto d'accordo, Maracchino di Bossimplicà, ma determinate radio no, lo provi se ho intenzione di venderlo, lo provi un giorno, due giorni, e da voi me lo dorri però, perché cioè, la cosa è così. Era funzionante quando gliel'ho dato. Ma infatti non vedo perché gliel'hai dato. Invece di trattati rudu. Ma se ci raggano una, dai, ci un ghisso. Era una belva, che mi fa sempre lo stesso impatto, un po' come forse sempre la prima volta. Ma vabbè, dai. Bello, è sempre un po' l'ultima raccolta. Facciamo perdere. Vabbè, pensaci. Domani io inizio a fargli tutto quello che c'è da fare a questo, pulizia, controllo ventre e quant'altro, VCO eccetera. Poi, massimo dopodomani lo metto, non so se metto su eBay o su Facebook, no, a chi vi è un mediente che ti fa pigli sul tempo. Lo pongo su eBay e caparroggero. Tanto a tenere due no, non mi ha fatto proprio nulla. Sì, ma non è più tempo, no, cioè, me ne voglio prendere uno di quelli moderni, se riesco, se no. Straordinariamente che poi non va. Non tieni la zigana, che se no hai antenna non fai nulla. No, poi tra l'altro con quella che hai è sorda, Natalie, capito? È sorda. Non fa con quelle, capito? Te ne basta una ma in alluminio, capito? Allora sì. Vedi tutto, ma poi ti basta per ascoltare, buoni, te l'ho detto, ti fai un loop, ti fai e ascolti, capito? Ma vedrai se fai quel lavoro che stavamo dicendo, a vedere si ciamba la musica e chi su chi vai. Oh yeah! A pompa! Ehi, io credo che pompa. Esatto. Il mio l'MC60 è già predisposto per l'ICOM, se lo ricordi che ho parlato con l'ICOM. Allora, sì, me lo ricordo, ho attaccato il microfono direttamente alla radio. col processore inserito. Mi viene manco gana di pigliare un altro apparecchio, perché l'antenna è sorda lì dove dovrei andare ad ascoltare. Io quello lì me lo uso solo per andare in banda laterale sulla 55, capito? Ehi, infatti. Cosa vuoi dire? Ci vuole, no, ma infatti o ti fai un loop, lo spazio è quello che hai, ti serve e prova con un loop, l'unica è quella, non so lì. Ma hanno fatto i condensatori, mi do cagato, bucano un condensatore, tocca fare il loop, poi bisogna metterlo fuori. Cosa fuori? Cosa fuori? Che fuori ora il bombo? Tanto gas e pompari. E ricevono molto molto bene, capito? Se sono selettivi, vabbè. Tanto direi da Nanzi, non è che ti goccia assai a regolare i condensatori. Mamma che giro, capito? Si sente un po' la stampante forse. Sta stampando un pezzo di un'ottica che mi hanno chiesto. Un'ottica, aspetta, me l'hanno mandata 10x23. E io ne ho una, ragazzo, bella prosa per la carabina di ottica. Mi sembra giù, è bella vero. Questa è una Leica 10x23. E li sto stampando perché gli è caduto, praticamente gli si è rotto il pezzo della ghiera dove regoli lo zoom, capito? Glielo sto facendo, glielo sto ricostruendo. E per quanto ho detto, forse si sente anche la stampante un po', che è qua a 50 cm. Io ce li ho due capi, uno è rigido e l'altro è il suo ricciolo, sono tutti e due pellicoli. Capito, quei capi che ho io. Uno è rigido di MC60 e l'altro è dritto, non è a ricciolo compreso, però c'è tutti i ricchinotti. Ti servono i due jack. I due, giustamente, i due cavi completi già con i suoi spinotti. I cavi completi con gli spinotti li ravengono già enormi e sono già predisposti per l'itro. Ma se lo devi collegare all'amplificatore c'è da fargli un lavoro. Per quello su quel messaggio che ti ho mandato, capito? Se vuoi fare quel lavoro là, così non devi attaccare nulla, gna buccia, perché una volta che lo fai con quello lo devi usare con quello, non è che buccia qua, provare l'altro, per quello esiste quella roba che ho fatto, perché in quel modo sei già a posto, capito? Poi non lo vuoi usare con quello, non fai altro che staccare da lì, attaccarlo direttamente alla radio e funziona, il microfono funziona come ho fatto io adesso, ho staccato da un posto e attaccato direttamente alla radio, dall'amplificatore direttamente alla radio, invece quella maniera non lo puoi fare, capito? Se vuoi provare un'altra radio non lo puoi fare, capito? No, ma a me mi serve solo per quella radio, e boh, a fare la bomba di bimba laterale, ma sì, a chi vede in AM si lampa la buccia. Sì, in AM non lo uso neanche quello lì. Sì, vedrai che quando ce l'hai, che vedi quanto pompa, a vederci su drappi in AM. Ma è troppo forte, il minimo è 15 watt. Come 15 watt? Quelli mi sembrano 25 in AM, massimo. No, il minimo è 15 watt. Mi seguono 80 watt in AM. No, cosa 80 watt in AM? Avanzano. No, non atta lì, quelli lì non escono. L'ho avuto io ho avuto il modello successivo a quello, ti ho detto. C'erano i Burugli, ho fatto avvato in AM. Già li dai in AM, infatti io non lo alzo mai, cosa? Il minimo però è 15 watt, invece un ghiaccio, con 2 watt. Ma si può abbassare sempre, no? Sapete. si può sempre abbassare da dentro, come tutte le radio. KK, e dopo cosa di una futti si dice con 15 fa? TV e si vende, cosa di una futti? Ma ok, non si facciano TV, è un altro discorso. No, non mi dopo vendi, non mi va di sapere. Quello più va. Come quando so che manda laterale a manetta, vabbè. Ma qui, cosa, due vatti sono più che tutte sufficienti. Lo so, lascio un attimino di pianto. Guarda, adesso sono con due vatti io. Così sono con due vatti. Ora. Sì, sono lavorato, ma è a toccare. A chi quando me l'ha dato era già revisionato, dice, da Bobo, e me l'ha dato qua. Non si sa come ha fatto a darmela, non me ne voglio manco darmela. Sì, ma se lo deve usare in banda laterale, Natalì, quello in banda laterale pompa, scusa, perché devi fare tutti i giochini per poi pompa già di suo in banda laterale, non ha già compreso. Io pensavo che quella roba là ti servisse per la M, se no va che cosa lui a Sarrati, se non anda in banda laterale, se non pompa in banda laterale con il microfono preamplificato, là c'è qualcosa. Oh, che pompa come una belva pompa, ti hanno collegato pochi di paesi. Appunto, e non ho capito, allora non ho capito quella roba là, a cosa ti serve quando poi in AM intanto non lo usi, mai detto, non lo vuoi usare, e ti serve metti per la banda laterale, e allora cosa devo fare su cosa quando in AM non lo vuoi punire? Spera un attimo. Oh, i riduttori. Ah, ma è arrivata, però me la manda davanti, a chi quando la manda arrivi subito. E a chi verrà a vapore, mi sì, devo seguire a cadere con Gaiboni, lo organizzo io, che si chiama Gaiboni. Allora, via. Aniedo e Gaiboni sarà, ma... Il marito si chiama Aniedo. Ah, visto lei. Allora, Eda si chiama Gaiboni. Ma sei medico di famiglia o diabetologa? No, medico di famiglia è. Oggi sono andato a fare la visita cardiologica e mi ha trovato appena appena la pressione alta, no? E mi ha detto che mi dindina mi la ciambanda, no? E mi ha detto di là, sai, sono cubiglienti, che tu papigliani la mi dai? Si ha a pigliare la donna come ti ero prima. Però chi c'ha che immaginato è in sostituzione di un'altra. Capito? È meglio quella che mi sta dando adesso, questa cardiologa. Ha detto, se mi alza prendendo la metà di quell'altra che mi ha detto, adesso a telefonarla che l'ha giusta lì la terapia, no? A chi è urgente ipertensione che sto andato a farmi la visita cardiologica, mi lancia a Pallinchini, a Reggio Conzubiano, a San Camillo. Il cuore, No, la visita cardiologica è andata bene, dice non si è spostato di un millimetro niente, perché gli ho portato gli altri documenti che avevo e ha detto che la visita cardiologica andava bene, solo la pressione avevo, ma a 140 mi lascia fandami. Quando inizio l'avevo a 120 zico, 130. E ancora te la misuri tu a casa anche. Ah, ma bisogna che cose che automatici, buro. Che cosa? Luca? Che misuratore di pressione? Allaggio io, va, infatti me la misuro, se vengo qui, chi mi ha stato di più, torna a pigliare la normale, invece di mi dare la bigliettria, la bacilla, e la telefoneggio subito e gli dico, guardi che mi è salita la pressione, invece di diminuire. Capito? Ma faccio il numero di telefono e tutto di chi dai San Camillo. Bravissima quella dottoressa, mi hai fatto una visita di lusso. Lì c'è l'ipertensione, non so, il fumo, vabbè l'alcol tu non bevi. Tante cose che non sai che la faccia. Ah, io non bevo, no. Ma tu, a fumare. È quello che ti la dottoressa lo sa chi fuma, ma ha detto a cercare di smettere, ma cosa non andava bene. Ma non è facile, ti ho detto quella. Uno giorno vedi, io dottore, sono in pensione, sono a casa, cioè, non è che io non si dice ogni santa manzana andare a travagliare, no, fatti ne si impegnato, cazzo sono in pensione. Sì, su questo mio gatto, guarda, mi ero voluto mille voci travagliando il gatto, che remo di carriera, invece di stare in oca, chi non chi sono in galera. Sì. Ma capisco ogni santa di, che o per il tempo, o per quello, per l'altro. La gente che si fa ogni santa di al mare, ogni santa di si fa, non si fa pure la miglia, su il mare, due chiacchiere, da così trattano. E io non vedo parenti, ma non tempo feo, che spendi? A te conferma. La gente a lui. Sì, fai. Fatto, fatto. Giulio, che fine ha fatto? Non l'ho sentito. Sì, vabbè, a cucendi, la sera fa già recce di bucco e bu. Un manzano si miglia di spinaci e fate un dogo. La sera è drummito. Come c'è di letto. Ah, Lucia, drommi. La recce di bucco se la accende. E allora, ed va tre baracchini accesi, in tre canali, io sabimo, casso no. E dove va tre canali e due arecci. E allora avanza una cosa in più da, ma si pone pure i cuffi di passare. Vabbè, una reccia in più. E allora? Sono tre canali, no, che non occupati solitamente. E dosaggi in tutte e tre i canali a cuscendi, va tre baracchine accesi contemporanea. Te lo puoi immaginare, la tecnologia. Siete giù nella lavandaia. Come insiste? Giulio, entra! E non è di provocarlo tu. Ma non c'è questa provocazione. No, va, ci ha dato appuntamento con Coso. Con Paone, con c'è che Paone, che non ne rubo che più. Ma chi con c'è che Paone? Ma sono un capivo che Giulio era amico di c'è che Paone. E ce l'ha fatta il decimone, ha raffito, non è più. Aspetta, mi vedi tutte e tre? Oh yeah! Alla dei Caraibi! Lo Trio de Janeiro! ma Paone mi ha detto, signor Giulio però non allunghi le mani. Facciala bravo, così dava la dita. E allora, che c'è già il mio fidanzato? E io faccio la cucina di vedrai chi entra e svoltami. Giulio! Sì, noi è a cucina, ho abbassato il volume in occhi, è a cucina di lato canale. E dopo fate così, mi hai compreso, è il secondo discorso che fai. Ah, ecco, ma chi su è allora? Ok, è il pezzo dell'ottica stampato. Adesso lo devo un po' adattare, ma entra perfettamente già. Allora ti mando l'originale, come ne farà d'intera, si è fatto mille pezzi. Che cosa? Cos'è che ti si è fatto mille pezzi, Luca? No, uno mi ha mandato da costruire il pezzo dell'ottica. Ti mando la foto dell'originale, come ti viene a farà d'intera, si è fatto mille pezzi. Il regolatore di zoom cos'è, non so. E per avvicinare l'immagine. Merugani che vuol far vita. Saluta zio Luca. Kurt, saluta zio Luca. Dai, salutalo tu. No, oggi no, non ha gana. Ma poi c'è due bedi in la barca, benzina romana, se mi faccio un mouse di rudo mio. Ehi, già l'ho visto, cazzo. Sì, ma chissà se funziona, se ne è caduta in terra quell'ottica. E poco sono delicate. Ma Luca, tu sei a piedi, così è, non è più macchina. Fermacelo, che si era bruciata la guarnizione della testata. Guarda che so video che ti ho mandato, come gliel'ho ricostruita. Che cavolo si viene parata da un terzo piano, già non si faccia. E già l'ho vista, cazzo, pure di grinaduri l'hai fatto. L'hai visto, eh? ragazza già gli ho fatto un bel riempimento anche, tranquillo che se li cade questa già non si fascia. Già l'ho vista, già ben fatta, ecco, bella grossa, no, come se chi dà la suia. Adesso ti mando, guarda se la conosci quest'ottica, si chiama 1023 Leica 1045 0630. E magari la conosco pure, io ne ho una grande, ma è 40 di coso, di lente, di... o 50 nei bari. Manna chi se va giù, la carabina va giù. E questa non so neanche di, sinceramente, di dove sia. Boh, c'è una vite per regolare, anche per stringere o forse per quando giri lo zoom, non lo so, non me ne intendo. E c'era paga che fusili, ma caccia cinghiale, per caccia grossa, mire, questo. Allora, sono tutti quella carabina a canna rigata, sono. Cazzo, ma è proprio pericoloso. Era già pericoloso chi di fusili normali, a tirare a balla. Figura di cazzo quella canna rigata che imbatti in un bel... Chi si non attesti l'animale e piglia la rocca, la palla, cazzo, dovrei andare io, un casino, Mi l'hai visto che c'ha quelle, quei cosi lì, quelle affari per regolare, poi c'ha quella vite, andè. E questa non bene, me l'hai visto su internet che costano i 300 passa euro, questi cosi, cazzo, mi sono così di goccia. E poi cazzo, secondo che fucile è, cazzo, è anche troppo per il cinghiale, perché usano calibri spropositati, perché per il cinghiale basta il 308 Winchester, è anche troppo, ma per gente che tratta la 3006, non rovini l'animale così. Che gli mando il video di, del lavorino che gli ho fatto. Ah va, se poi c'ha due zampe e poi c'è la zampa andata al braccio meno, mi chissà cosa Luca. E un attimo, sto mandando il video a quello, Natalia. Cappa. Sì. Chi è? Oi, Biordo. Frigido, carissimo. Come Natalia? Sì, tutto bene. Sono andato a San Camillo stamattina. Oh, tutto a posto, sì. Sì, ma c'è fatto una pressione solo un po' guata, ma poco mi... mi ha cambiato le pastiglie, la cura mi... Questa... Però la visita cardiologica già è andata bene. Meglio così, dai, meglio così. E a chi mi c'era un po' che cavadata prima, era, però in estate ce l'avevo bassa, 125, 130, e mi l'ha ciappata 140. No, c'era già un po' di tempo che... No, 125, 130 ce l'avevo, no, massimo 130. Pochi giorni fa, tu eri con la pressione alta. Ma cosa ti dice? Chi ha detto? Se non me ne ha misurato. Cambiare. Se non me ne ha misurato, la gente. Infatti, Se mi ha misurato e te l'hanno detto. Vabbè, canta, mi lascia fare da 140 e abbassi, abbassa, anda bene. Ma non conto che fa la meglio se abbassa. Meglio così, dai, meglio così che sto bene. Ah, ma devo fare solo la visita a Luci, devo fare all'INAM, un diviso che si colleghi lui. Da Stefano, lui c'è Stefano, un collega mio. Cazzo, sono i chiavi, cazzo, alla longa c'è la biglia. C'è l'appuntamento, alle 11 devo andare. Dammi il giornale. Ah, allora che andrà bene. Allora, sono corrisci da Ciappalli, chi c'ha di San Camillo e chi c'ha di Luci. Chi mi serve in barra visita diabetologica, mi faccio solo le analisi del sangue quando ho fatto quella visita degli occhi e a marzo ti vediamo con la dottoressa, riboccio tutto e via. Aspetta un attimo, Natalia, attenzione, canale 10, c'è qualcuno? Hola. Ma questa ti sembra la di entrare? Eh? Era un canterino, se da adesso va da lì. Stavo cantando. No, da devi cantare, in questura devi cantare. No, no, io non ho da cantare in questura. Non canta né per me né per gli altri. Oh, iaia. C'è Emanuele che si è spostato un attimo, deve essere a togliersi la divisa. C'era anche Luca, però va, sono in stand-by e io mi stavo scaldando nella stufa e ho sentito a te. Ma è presto, Bilatari, non è che c'è tardi, là, sono le 6:30, se te vanno qui. È presto, non c'è mai nessuno prima, io molte volte ho provato prima, non c'era mai nessuno. Di solito ci siete dopo le 6:30. Io stamattina sono andato a San Camillo a fare la visita cardiologica, devo fare solo quella degli occhi adesso all'INAM il 13. Meno male ho trovato i posti. Invece io la visita cardiologica la devo fare e me l'hanno messa a luglio. Tutto. Tu se la devi fare prima, ti conviene ritelefonare e te la fai prenotare. A me l'hanno trovata a San Camillo, se io gliela posso dare solo a San Camillo, al centro impegnativo, e la prenoti lì, va benissimo. E poi andrà benissimo a Vila, chi è brava a Vila, dottoressa, mi ha fatto una visita di lusso. Oh, e beh, tutto bene, Natalia. Sì, sì. Ha fatto l'elettrocardiogramma, ha detto la visita cardiologica è andata bene, la pressione è un po' alta, mi ha trovato, ma è per le pastiglie, me l'ha cambiata una e l'altra ne devo prendere la metà. Ha detto se vede che gli sale, perché io so, guardi che me l'ha data questa perché mi saliva. E là se vede che se la torna a prendere normale mi telefona, poi già la aggiusto io la terapia. Andare bene. No, mi tenete il controllo, mi tengo sempre chissà la dottoressa Paruguri. Ma che bravissima. Ma dipende sempre quella che ti danno loro per fare la visita, la decidono loro cosa darti, non è che te la guicciugaranno, almeno che vai a pagamento. No, no, ma dato via l'impegnativa, ma e poi anche il numero di telefono per telefonarla, non ti preoccupare tu. Ma se te la fa tenere l'impegnativa la sacco. Infatti, quando vado a visita di controllo, che mi dice di andare a controllarmi, devo fare anche gli esami del sangue, mi ha ordinato, la creatinina che l'avevo già fatta per la più normale, la più batabaradà, e per l'attacco non ho trovato posto. E ma va a me, indici di telefoneggio, d'ora, perché intanto mi interessa fra 3 mesi a me. E l'attacco è sempre un problema, l'attacco anche io ho avuto problemi per trovarlo, infatti l'ho fatto a pagamento. Quanto hai pagato per l'attacco? E cacci la metta, e un bel comunque, mi pare 40 euro, una cosa del genere. Gira io ando a pagamento allora. Però è da tanto che l'ho fatta, mi sembra che ho pagato così, l'ho fatta, da Urigo mi pare. E così mi ha fatto pagare più o meno, 40 euro mi pare. Però è una baranoia che si esale, mamma mia, non finì mai. Tutti tu. Questa è la risonanza, ma Dacchi non è fastidiosa come c'è la risonanza. No, è la risonanza che ho fatto, non la attacca allora, la per il voglia tu. Ciao Gianni, buonasera, sono in ascolto, sto facendo roba qua, vai. Ciao, sempre roba sto facendo, cosa stai smontando? No, domani isso, sono operatore domani, mi fanno che pure vai. Cavagato. Che microfono stai usando adesso? 60. Se ti cambia la voce, lo sai, è amplificato, sembra un microfono amplificato di baracchino. Sì, a che trattano il rubedale, Beromme. E li fa da amplificatore quello. E anche da equalizzatore fa. E tu quando te l'hai con frequenza metto la terra? No. Ce l'ho qua. È bellissimo questo. È da laboratorio, Emmy, non è un giocattolo. Ne lo so. Ma me l'ha detto. Aia. Mi ha provato a chiedere a quella persona là. No, non l'ho chiesto a nessuno la verità, sono impegnato ma che visiti e cose, figurati. Manca il baracchino se il bodì sopra in trendi. Stasera a Chirulibaru, però stamattina ero là che stavo facendo quella visita. E per vedere se mi possono operare quell'aneurisma e mettere a posto la storia del sangue della gamba, Emi. E sta facendo le visite. E allora se mi vuole operare fra 3 mesi, se con l'attacco, perché me la devono fare sia all'addome che al torace. Devo fare tutto al budi praticamente con e senza contrasto la vogliono. Ho capito. E da lì si riservano se ti possono operare o me. E anche per tenerla sotto controllo, perché ogni 6 mesi devo fare per portare l'attacco per tenerla sotto controllo. Questo cavolo di... Perché non mi possono fare niente alla gamba finché non faccio quella lì, se no la buona può entrare. Se loro mi operano per la gamba non possono agire sull'aneurisma, capito? Ho capito. Me l'ha spiegato quella chirurga. E vuoi che ti dica? Purtroppo è così. Bisogna tenerla sotto controllo e basta il aneurisma. È interessante, non si ingrandisca. Infatti, bisogna tenerla sotto controllo per quello. Se rimane ferma non ha problemi. E quindi se diventa più grande, quello è il problema. Manuele, ci sei? Manuele sarà fittendo i voci. Manuele è uno dei miei follower su TikTok. Tutte le mie canzoni, va a vedere. L'ho visto, gatta, in divisa, gatta. Magrolino, hai visto quanto è deperito, poverino? È per quello che deve mangiare. Perché ha detto che adesso non mangia più carne. È diventato vegano. E cosa mangia? Passa tutta solo. Lui è sempre male di gare. No, non c'è, non ascolta, se no sarebbe entrato. Ah, dove se ce ne cava in di la divisa? No, ce n'è mezzo. Ce n'è mezzo. Perché ha smesso di lavorare o deve entrare? Ha smontato? Penso che abbia smontato. Ah. Quindi stanotte non lavora. Ehi, ci mancherebbe, poverino, tutti i soli che fanno, mamma mia. Oh, yeah. Hai visto quelli del furgone portavalori, gas? Rischia un casino. E dopo questo amico mio è partito in continente, vabbè, si è sposato lì. Ha cominciato a mettere i bigliettini sotto le serate, faceva 300 km ogni notte. Faceva Oderzo, Treviso, tutta quella zona lì. E metteva i bigliettini, poi ha cambiato, di volta in volta ha cambiato ditta. E adesso è con la Mondial Tour, guida i furgoni, porta paura. Sì, ma è un bel pericoloso, cazzo, in continente ne succede più che i noghi. I noghi comunque è più di bene la situazione, mamma mia. E allora, hanno visto che anche il continente lo fa. E perché quei due ragazzi di 15 anni che erano scomparsi da casa di Ubia, dice che forse hanno fatto la rapina, che è per quello che sono scappati. Li hanno trovati. E a quanto pare hanno fatto la rapina da questo senegalese, cosa è, in un negozio di questo senegalese. Un mattarino si è fatto. Non è che stavo aspettando. Cosa stavi aspettando? Affettando. Ah, sempre di concorrenza Manuele. Faccio concorrenza Manuele. Perché è l'ora di mangiare. E allora stavo aspettando la fettina. Cosa, salsiccia? Fettina. pappagallo. Perché la carne a pezzi la coppa? L'ha fatta, certo, me la fanno in crea. Non si è capito nulla perché questo ha abbagliato, poi c'era la concetta, hanno fatto il duo. E allora? A che dopo la pezzina? Ha compreso? La fettina vuole. Invece tanto sta mangiando poco, ci deve essere qualche cagna in calore, buh. Ci mangia la garra e basta, non mangiasso. Briciola! E beh, Emanuele, le stavo dicendo a Natalino che si è diventato vegano, che non si più mangia di carne. Com'è tu vegano? Che se l'ha negato un me. Hai visto quanto sei dimagrito? Cappagappa. Ehi, allora si piace la garri, Emanuele. Si piace troppo la garri, tu gaggio. Ah, ce la mangio, però... settimana va bene, ma non ne arrivo prima, ma ne mangiavo ogni giorno quasi. Anche io, mattina e sera mangiavo, adesso ho diminuito un po' le dosi. A volte a pranzo, invece che mangiarmi una fettina, mi mangio una caprese, qualcosa così, capito? Cerco di superire la fettina sempre, e se no mangio carne in bianco. E se ne lo sa mangi? Cazzo, se va mangiare lo sa mangi? Mozzarella, insalata, lo sa mangi? Cazzo, a base sono fatto tutto con questa cazzo di farina di grillo. Cazzo, che schifo, per carità. E infatti fra poco cadesci pubblica con tutti. Cazzo, dove siamo andati a finire, roba la matti. Nel 2024, anche un poco, cazzo, mangiamo cavalletti. Come ti dice il cazzo di cinesi, che mangiare i cazzo zuri, che mangiare di tutto mangiare. Io dopo come sono abiti mangiando, schifosi, ci mettono le mani in mezzo, la bagnano in queste salse che fanno loro, la mangiano con avidità la cosa. Non so se l'hai visto quello mangiandosi la gallina che ci ha mangiato il becco e tutto, ossa, becco, tutto. Già l'ho visto, sì, ma fanno schifo, ma perché cazzo fanno così? Perché non li bloccano questa gente? Penso che è un modo di mangiare. E dopo quello lì che faceva il paiolo, cucinava e faceva le porzioni, buttava la roba così, magari dai all'aperto. Ti giuro che gli venivano i bacetti mentre cucinava, camminava. Mamma mia, già l'ho visto quello lì, sì. Mamma mia, io cazzo, io non so che dove stiamo andando a finire, cazzo, per carità, veramente. E vogliono fare anche la carne, sentite. E già se la mangiano, questa è carne, sentite, già se la mangiano, il balis. Di plastica. Allora, la basta. Già l'ho detto, la buona gente, cazzo, tutta malata. Di tumori, chi, tumori, chi dà, cazzo di aurobrido, tutta la roba che cazzo di puscani, la roba non che se la buscane vola, la roba di là che se la mangia. Sì, non hai visto cosa gli hanno fatto gli agricoltori, gli hanno offerto 1.500 euro per non produrre prodotti, in compenso danno 1.500 euro al mese. E che perché non hanno fatto questo? Per favorire l'estero, per mandare la roba dall'estero. Perché sembra giusto secondo te? Giusto, ma stai scherzando. E il latte che producono in più lo dovrebbero buttare, se no sono buttati. Uno invece di avere un premio di produzione, devo farlo buttare là. Ma per carità, chi è che vuole entrare? La bottante. Vai, Natali. Aspetta che sto finendo di mangiare. Cazzo di sì, ma da fare la macchina sì. Sento un rumore. Si era brutto. E vabbè. È una prerogativa dei Natali, non c'è il televisore acceso. Senta neanche il rumore. Perché ha il microfono che è molto sensibile, capito? Prende tutti i rumori, oltre che fa la voce bella, bella corposa, ti prende anche i rumori che ci sono attorno. Sì, perché c'è troppo, è piccola la casa e quindi è normale che fa tutti i rumori. Manuel! Ho detto! Dammi un controllo a te! vedere se sta uscendo bene. Adesso sì, e che controllo, che cazzo se vuole scala al controllo di dopo. Sì, non per bisogno ti arrabbieggi. Gianni, come sta uscendo tu che sei lontano? 9:30 Radio C. La radio è bella, sì. Sì, sì, è chiara. Perché cosa ci aveva? Perché questo microfono gli ho cambiato il cavo e lo spinotto, quindi l'ho messo a posto. No, no, va bene. E che microfono è? L'Intercam 600. Ah, ho capito. Come ce l'avevo giù Maria? Ce l'avevo anche io quello con l'eco. È molto ingombrante, però va bene. È bello quello, il cazzo mi ricordo, l'avevo comprato anche io, ti ricordi? Non so se c'è ancora, a poco tolle se, che vendevano barattini, microfoni. 9 a produttore, che mi ricordi io a produttore di 9 in ce n'era uno all'entrata che vendeva roba di nautica e vendeva qualche barattino anche. Quello lì all'entrata è poco tolle se, faceva la sala di ottava. Ho capito chi era, se no non c'è più già da un mese. C'era messo prima un fotografo, c'è fotografo, si è spostato e non so cosa ci sia, mi pare che c'è una pizzeria adesso. Caterina aveva roba bella, c'era microfono, c'aveva, di tutto c'aveva. Quello li aggiustava pure. Sì, ho detto, io ti sto parlando di cazzo, va via 18 anni, va via 17-18 anni, ma andavo lì per salute, tanto ne va. Sì, c'aveva gli HF, Marini, tutta questa roba qui c'aveva. Sì, aveva una bella roba, cioè, era caro, però c'aveva una bella roba. Di fronte al rifornitore. Poi c'era una Lecunce che vendeva baracchini, se te lo ricordi, uno che adesso ha un altro negozio, sempre di elettronica. E la maggior parte ce n'erano, era piena di questi negozi qua, ma non voleva alcuno, prima c'era anche cose, quello che c'aveva la mano piccolina che stava lì vicino a casa di Mazzarino. Quale casa? Quella Santa Maria Costa 30. Ah, quello dietro l'edicola. Anche lui vendeva malattie, non so se le vende ancora. Sì, in via Rosello c'era Gasperini, in via Rosello che li vendeva, poi c'era quell'altro negozio, la concorrenza di Gasperini, quello che vende roba elettronica lo stesso. Lui vendeva un bel, in via l'Italia, li trovava a Pomponio, per carità. E ce n'erano più in via Roma, c'era anche, come che si chiama, Paolotto. Era piena, ma non vedo nessuno, non vedono più di questa roba. Sì, su internet ce ne sono ancora baracchini, questi di buia. Uno stavo vedendo un 40 canali, stazione base Midland, quelli bianchi, ce ne presente. 50 euro, gli ho detto se era funzionante, mi ha detto che cosa pensi che si è acceso per moda? E ho detto, beh, veramente, un macchino quando è acceso non si sente se sta uscendo, se esce di ricezione di trasmissione, è quello che volevo sapere io. Comunque, visto e considerato che fammi da due uscire, ti rimedio più, ciao. Ah, di dove era? Già l'avevo visto, sì, insomma che qui. No, era su coso, su Facebook l'ha messo. Anche se un marketplace mi sembra che l'avevo messo. Ma non ti conviene appigliare perché chissà cosa va. Mai mai fatti. Io infatti ho detto, ma è funzionante, tu cosa pensi che si è acceso per moda? Mi ha risposto. Vabbè, non c'entra nulla il fatto che si è acceso, può essere che non esce in ricezione e in trasmissione, c'è il finale bruciato, accende, ma no, non esce. Quello va bene a uno che fa correzione, quindi io e sviluppo in vetrina, ma sopra non è blu. No, già escono bene quegli apparecchi, escono bene qui Villa, perché ce l'aveva Franco di Sorso, usciva bene. Visto che ce n'era un altro che non aveva microfono, c'aveva la corretta, c'aveva del telefono. E quello già faccio, ce l'avevamo anche noi acceso la corretta del telefono per modulare. Quelli lì erano, quindi hanno più di 50 anni quella radio lì. No, ma sono loro che gliela mettono, ho capito la connetta. È quella dei carabinieri praticamente, quando le macchine le smontano, le fanno e cose, c'è qualche carabiniere che busca la connetta e te la dà. Sono quelle che hanno il tasto proprio dove li impugni, ce l'è presente, dietro dove ci sono le colonnine, c'è il tasto. Sì, già l'ho visto, già l'ho visto. E ce l'avevamo nel fuoristrada, acceso. No, nel fuoristrada dei carabinieri, no, perché fanno l'asta, siccome c'è